Beh, loro erano tra le eresie del William ventenne appassionato di AC Jazz, degli Incognito, dei Brand New Avis, Ronnie Jordan, Galliano e quant'altro. Poi arrivarono questi con un trio strano, erano Medeschi, Martin and Wood, e non so per quale motivo io cominciai a comprare tutti i loro dischi, Alfredo. Mi piacevano un sacco, nonostante la giovane età. Ma Medeschi è quello che ha riportato in auge la Monorgan, che era completamente andato in disuso, perché dopo i tempi fastosi di Jimmy Smith era considerato un po' robaccia. Vedi, e che invece, parlare con te mi trovi la chiave di comprensione del perché. E invece Medeschi ha ridato questo nobiltà a questo strumento. Vai. Qui in effetti capisco, è uno dei Jimmy Smith, è Jimmy Smith, Torniamo comunque con i fili conduttori del nostro format, il momento di Angelica, decima programmazione per quanto riguarda il Centro di Ricerche Musicali Angelica, e sarà appunto da fine settembre fino a dicembre, con una particolarità. Perché Medeschi, uno può dire? Perché John Medeschi sarà all'interno di uno speciale tra Modena, Reggio Emilia e Bologna, e non so se bastano queste tre piazze per racchiudere John Zorn. E questo, insomma, fai mo' uno speciale su John Zorn. Ha fatto 10 volumi di musica da Olaz dal 600 fino alla musica concreta, quindi c'è di mezzo più mondo. Tutto masata ma infatti allora l'enciclopedico John Zorn, iperproduttivo oltretutto, oltre che etichette, Knitting Factory, la Zadig, ma sa un locale a New York importantissimo, lo Stone, il locale, infatti questo è completamente andato. Comunque ne è un grande talento, ciò non toglie, anzi guarda, per quanto riguarda Angelica sicuramente avremo delle giornate di incontro che prenderanno anche a Bologna. Attenzione, perché questo a mezzanotte, alle ore 24, quindi è round midnight, martedì 31 / 1, perché non sbagliate di sera, esatto, non perché è un attimo sbagliare di sera. The Hermetic Organ con John Zorn, Office number 29, John Zorn organo e sax alto, per cui si metterà l'organo nella chiesa dei servi e oltretutto suonerà il contralto. Beh, questo insomma è un motivo in più per curiosità, come ma diceva sì, Angelica è musica a 360 gradi, sì. Poi ovviamente magari ognuno ha i suoi gusti e le sue inclinazioni, tranne gli amanti del non conosciuto ad oltranza, però ce n'è per tutti i gusti, sinceramente. Io penso che Angelica ha visto le cose tra le più belle, tipo la San Moderne che interpreta da o tipo le macchine parlanti di Ainer Gebel, insomma tutte cose tanto belle quanto anche diverse, particolari, certo, eterogenee fra di loro. Non è la banalità di dire la musica del futuro, perché non ha senso, è la musica del presente, è una musica di tutti i tempi. Ma sì, poi una ricerca la fanno oggi, mica domani, infatti, quindi non cadiamo in certi aspetti, sì, la Picorello che possono, piace Catinelli, esattamente, non ci sono più le mezze stagioni, no, Angelica non rappresenta questo di sicuro. E con Simonini, direttore artistico del festival di questa decima edizione, siamo un pochettino entrati in questo settembre-dicembre, in questa estesissima rassegna. Sentiamo le sue parole. Quali saranno le linee di Angelica 2023? Ma innanzitutto se siamo arrivati con molta fatica a 10 anni, molta fatica nel senso che per fare determinati percorsi c'è una certa dose di fatica che va sempre considerata. Le linee sono un po' casualmente, ma un po' per via della progettazione che ci siamo dati, essendo la decima stagione, capita che apriamo con il 29 settembre alle ore 19:30 con Stranded Horse, che è questo duo con Boubacar Sissoko, quindi è un duo franco-africano, cora, chitarra acustica, voce, e quindi già questo penso che dalla strumentazione penso che stimoli un po' di curiosità, e comunque è un percorso particolare musicale che fa questo musicista che usa lo pseudonimo di Stranded Horse. Continuiamo con un insieme di musiche che vanno dal duo Onde Martenoi e voce soprano Monica Benvenuti e Cécile Latirgeau, che fanno musiche di Bussotti e di Francesco Giomi e di un altro compositore che adesso mi sfugge il nome, per poi andare al progetto speciale John Zorn, che compie 70 anni, che facciamo a Bologna, Modena e Reggio Emilia il 30 e il 31 ottobre, e così via fino al 14 dicembre, che presentiamo il film di Lino Greco sul treno di Alvin Carran, che viene dal treno di John Cage, che è un insieme di anniversari un po' speciali, compreso il compleanno di Alvin Carran il 13 dicembre, che fa un concerto, e il 14 dicembre invece presentiamo il film, una serata a cura di Walter Rovere, che è uno dei curatori, perché non è scontato, ma noi già da prima del centro di ricerca musicale abbiamo iniziato a costruire i programmi di Angelica, che è diviso tra il Festival Internazionale di Musica, che fa un po' culminare la stagione, che va la stagione del centro di ricerca musicale, che va da settembre ad aprile, e a maggio c'è il festival. Quindi diciamo che la dimensione più internazionale è quella del festival, ma anche la stagione, si è sparsa la voce che facciamo una stagione a livello internazionale, quindi include anche un tot di musicisti stranieri, a volte insieme a quelli italiani, a volte invece sono più che altro italiani durante la stagione. Questo ci ha dato l'opportunità di fare laboratori, residenze, registrazioni di dischi e tutto quello che riguarda le attività di un centro di ricerca musicale, che quando è nato noi siamo andati lì, abbiamo trovato lo spazio vuoto e lì con il budget che avevamo per fare il festival. Allora, questo è uno dei dischi più belli che ho della Zadig, racchiude tutti i Masada di John Zorn nel Live in Jerusalem del 1997. Questo è uno dei dischi della Zadig veramente più belli che tengo gelosamente, questo doppio live, e appunto con John Zorn nel primo quartetto Masada, che vede Greg Cohen, Joy Baron e Dave Douglas alla tromba. Sì. Cioè una formazione... Da uno, in questo incrocio tra scale orientali e Ornette Coleman. Sì, è un disco questo veramente, ecco, per se volete un pochettino ascoltare qualcosa che vi possa ispirare, questo per me è un imprescindibile. Ecco, invece c'è un secondo quartetto Masada che sarà presente in Angelica. Allora, il programma di Angelica sarà seguito dalla rubrica Altri Suoni, pur mantenendo le sue perché attinenze. Angelica può entrare in Blues Train, in Salpinas, in Jet Live. In Radical Pop, in Radical Pop, poi può entrare dappertutto. Ah, persino vi piace l'opera. Anche, certo, è vero. Tra l'altro, martedì, che salutiamo perché è tornata, grandi. E martedì farò un piccolo approfondimento perché c'è anche un'attenzione per i piccolissimi, perché c'è il piccolo coro Angelica. Ah, fino allo zucchero d'oro. Fino una sorta, insomma, di no, mi ha incuriosito, ho visto alcuni brani interpretati da questi bambini. 44 gatti, però con qualche intromissione sonora. Ah, sì, un po' di elettronica. No, li ho avuto la possibilità di vederli nell'interpretazione di Povera Patria di Battiato. Povera Patria, ma c'ha ragione Battiato. Sì. Eccomi. E programmi contemporanei, cioè programmi che nei teatri d'Europa sono più normali che qua. E quindi Bologna, città della musica UNESCO, che è anche la città di Angelica del 1991, si merita un'evoluzione ulteriore, perché io dico sempre, ogni coproduzione tra soggetti diversi vuol dire anche andare un po' oltre se stessi. Cioè vuol dire che la mia evoluzione, se vado a lavorare con uno molto distante, diverso da me, ma perché c'è un'idea che ci unisce, quindi forse è necessaria, vuol dire andare un pochino oltre entrambi. Io conoscere l'altro e l'altro conoscere me. Certo, e già questo è un motivo di crescita, sì. Con l'eterogeneità crescita continua. Crescita collettiva, non personale, non di carriera, che è importante perché bisogna vivere, ma non è la carriera. È l'idea che ti trascina e ti porta avanti verso qualcosa che tu ritieni necessario. È vero o non è vero? Lo vedremo. Sedi della rassegna, siamo onorati di tornare a collaborare dopo diversi anni con la Fondazione MAST. Siamo alla base con un concerto di Pierre Bastien e Louis Lorraine, due cornette, cioè la tromba cornetta, cornette, sì. Più meccanium, oggetti, cose, giocattolo, duo molto particolare. Poi abbiamo un concerto a mezzanotte il 31 ottobre alla Basilica di Santa Maria dei Servi, con la quale abbiamo fatto molti concerti importanti, ha registrato dei dischi. Terry Riley, Herman Nietzsche sono diventati dei dischi. Con John Zorn, Hermetic Organ, che si esibirà all'organo dei Servi, l'organo a canne, ma anche al sax contemporaneamente. Suona il sax e l'organo. E questo è il progetto Zorn con Modena e Reggio, no? Che si chiude, sì. Si chiude a Bologna a mezzanotte. Al Museo della Musica con due film, un omaggio alla regista Jacqueline Coe, un film sul minimalismo e un altro su Detroit techno, diciamo techno d'avanguardia, se così si può dire, a cura di Walter Rovere. Ecco, direi che un po' è la stagione fino a dicembre, perché poi ci sarà la seconda parte da gennaio ad aprile. In mezzo dei lavori del PNRR che abbiamo, sono già iniziati e dobbiamo concludere. Io la ringrazio tanto e ovviamente le auguro una buona giornata. Grazie a voi. Allora, è veramente esteso il programma. Io cito quello che è questa sera, venerdì 29 settembre, alle ore 19:30, al Centro di Ricerca Musicale Stranded Horse in Boubacar Sissoko. Per cui prendiamo This is a Rock and Roll Radio del giovedì e Controvento di titolo in questo caso, perché abbiamo si fa tutto il palinsesto. Un musicista del Senegal, tra l'altro molto talentuoso, con Stranded Horse, che porterà nella rassegna anche alcune alcune selezioni delle musiche dei Joy Division. È per quello che ho citato il giovedì in rock, sì, hai capito? Sì. Oltre che controvento. Onore al merito per queste intersezioni che indubbiamente sono un valore aggiunto. E non chiamiamole contaminazioni. No, non sopporto. Perché la musica, come dice qualcuno, non è un virus, che uno è sano, l'altro è malato. Impuro. No. La contaminazione si chiamano, prevede... giustamente detto Simonini, incontri. Sì, oppure, se io dico intersezioni di solito, relazioni, chiamo... perché la contaminazione, ma non contaminazione, prevede una parte impura. Prevede che la parte, quella colta, è talmente democratica che accetta i poveri cugini di campagna. Non funziona così. No, non è così, no. Vi lasciamo in buona compagnia con John Zorn e il primo quartetto Masada. Vi diamo appuntamento a venerdì prossimo, ringraziandovi per l'attenzione, con altri suoni e approfondimenti per Angelica. Ovviamente, se ci sarà poi motivo di jazz, entreranno nel Torrione. Invitiamo anche il nostro amico Walter Rover. Ah, grande, mitico. Qua. No, perché è sempre un contributo importante, sì, perché sì. Walter ne sa. È un chiamiamolo co-curatore per quanto riguarda anche il cinema, l'elettronica, il progetto sulla techno, insomma... indubbiamente da tenere in considerazione tra le tante frange di Angelica. Alfredo, io ti auguro un buonissimo weekend, grazie. So dove vai in questo weekend, lo so. Sai già, tu sei già nelle valli, nelle valli vai. Pare che sì, certo, pare sia anche un bel weekend, sì. Pare così. Lo auguriamo anche alle nostre ascoltatrici e ascoltatori. Ciao.